sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Verso il referendum, assalto ai monumenti, striscioni di Greenpeace su Colosseo, Ponte Vecchio e Campanile di San Marco. Calcio scommesse, una task force andrà a caccia delle combine. Santoro record per l'addio alla Rai, Galimberti un euro a puntata, non ci crediamo, lui è una star. La Croazia entrerà in Europa nel 2013, negoziati conclusi, annuncia Barroso. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. È stato un vero e proprio assalto ai monumenti quello messo in scena questa mattina da Greenpeace, solo una delle molte manifestazioni, perché oggi è l'ultima giornata di campagna per i quattro referendum. Le urne saranno aperte domenica e lunedì per il voto, e allora cominciamo da qui con Andrea Viali. Anna, dunque, ultime ore di campagna referendaria, domani, lo ricordiamo, sarà giornata di silenzio preelettorale e oggi si concentrano quindi molte iniziative a sostegno dei referendum. Stamattina, come dicevi, sono andati in scena anche gesti eclatanti, possiamo dire, come quelli di Greenpeace per sensibilizzare gli elettori. Gli attivisti dell'associazione ecologista hanno appeso degli striscioni contro il nucleare sul Colosseo a Roma, su Ponte Vecchio a Firenze e sul campanile della Basilica di San Marco a Venezia. Fra le varie manifestazioni in programma in tutta Italia, stamattina ne abbiamo seguita anche noi una a Roma, nel quartiere di Trastevere, dove abbiamo raccolto gli ultimi appelli dei comitati per il sì. Allora sentiamo prima Maria Maranò del comitato Vota Sì per fermare il nucleare e poi Paolo Carsetti del comitato referendario Due Sì per l'acqua bene comune. Votiamo sì perché dobbiamo dire no al nucleare, dobbiamo dire no alle tragedie, all'insicurezza, non vogliamo assumerci la responsabilità di tramandare a tante generazioni future il rischio delle scorie, e votiamo sì perché vogliamo metterci una croce sul passato e invece investire tutte le nostre energie e le nostre risorse sul futuro, che significa innovazione, significa risparmio energetico. Investire sul risparmio energetico significa investire sulle rinnovabili e in questo modo affrontare la crisi climatica e la crisi energetica. Quindi è un sì per il futuro del nostro paese. Il pericolo è quello di trasformare l'acqua in una merce alla stessa stregua degli altri prodotti che vengono messi sul mercato. Al di là di questioni di principio che riguardano il fatto che l'acqua è un diritto universale sancito anche dall'ONU, ci sono questioni anche più pratiche che toccano la vita quotidiana delle persone, perché la privatizzazione ha portato esclusivamente a innalzamenti delle tariffe negli ultimi 10 anni pari al 60%, e contemporaneamente però si è assistita a una diminuzione degli investimenti che sono proprio crollati dei 2/3, quindi una diminuzione anche della qualità del servizio. Insomma, è stato un totale fallimento la privatizzazione che verrà portata a compimento con il decreto Ronchi. Per questo bisogna andare a votare Due Sì il 12 e 13 giugno. Così dunque la campagna referendaria. Aspro però intanto è il dibattito politico. Elisabetta Fiorito. Sì, ultime ore di campagna elettorale dove il voto sembra più prendere i contorni di un gradimento o meno al governo, anche se il ministro dell'agricoltura Saverio Romano minimizza, non è una cartina di tornasole per l'esecutivo. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto che non andrà a votare, anche se il PDL lascia libertà di voto, mentre il governatore del Lazio Renato Polverino voterà sì a tutti e quattro i quesiti. Il governatore della Lombardia Roberto Formigoni non voterà nemmeno a quelli milanesi. Lega divisa, Umberto Bossi ha detto che non andrà, favorevole invece il governatore del Veneto Luca Zaia. L'opposizione è abbastanza compatta invece sulla necessità di andare a votare, impegnato particolarmente l'IDV, primo partito promotore della campagna referendaria. Per Antonio Di Pietro, aria, acqua e legalità sono temi che si pongono ai cittadini indipendentemente se siano di destra o di sinistra. Impegno massimo della sinistra radicale per il sì, soprattutto per il referendum sul nucleare, e appoggio al quesiti anche da parte del Partito Democratico. Siamo a un passo da al miracolo del quorum, dice il segretario PD Pierluigi Bersani. Invece il SPLI e Gianfranco Fini sono per la partecipazione al voto, ma libertà di scelta per l'UDC. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Intanto l'ultima puntata di Anno Zero, dedicata ieri proprio ai quesiti referendari e ultima apparizione in TV di Michele Santoro, ha battuto ogni record. Il programma è stato seguito da 8.389.000 spettatori. Il presidente della RAI Paolo Galimberti sta parlando proprio in questi minuti, la polemica è ancora aspra, ne parliamo più avanti. Ora invece il calcio scommesse, nasce un'unità investigativa per evitare altri scandali nello sport, ne faranno parte rappresentanti del Viminale, del mondo dello sport e del Ministero dell'Economia. L'annuncio è stato dato questa mattina dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni al termine di una riunione con i presidenti di Federcalcio e CONI, Giancarlo Abete e Gianni Petrucci. Sentiamo Maroni. Non sarà quindi però un osservatorio, ma sarà una unità investigativa vera e propria, quella che abbiamo deciso di istituire oggi, che essendo un'unità investigativa sulle scommesse sportive vedrà la partecipazione delle istituzioni presenti a questo tavolo, più Ministero dell'Economia attraverso i monopoli la società Sogei e il mondo dell'ippica con Unire. Questa unità investigativa avrà lo scopo di raccogliere le informazioni e di valutare le segnalazioni di anomalie che vengono per esempio dai concessionari o che vengono da altre fonti e fare una prima valutazione se queste segnalazioni di anomalie per eccesso di scommesse per esempio che vengono dai monopoli possano essere approfondite e l'attività investigativa vera e propria attraverso gli strumenti investigativi che noi Ministero dell'Interno abbiamo verrà demandata a un gruppo investigativo fatto da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ma intanto c'è la vicenda di questi giorni da chiarire a Cremona. Vanno avanti gli interrogatori. Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Anna. È ancora in corso nel tribunale l'interrogatorio di Marco Paoloni, il portiere della Cremonese che viene ascoltato dal procuratore capo Roberto Di Martino. Il portiere è ritenuto il perno su cui ruotava l'intero sistema di scommesse truccate. L'inchiesta, tra l'altro, nasce proprio da quell'episodio che lo vede protagonista, che lui avrebbe somministrato un tranquillante ai compagni prima del match Cremonese-Paganese finito del 14 novembre 2010. Da qui prese via l'inchiesta che ha portato poi ai 16 arresti e 28 indagati a piede libero, quindi è una figura chiave. Ecco, dopo questo interrogatorio che succede? La prima fase si dovrebbe avviare a conclusione. I magistrati stanno lavorando su agende, su computer, sequestrati agli arrestati e altri nomi potrebbero finire nel registro degli indagati. Secondo gli investigatori si sarebbe aggravata la posizione di Signori. Un altro rischio è l'ex giocatore Gigi Sartori, indicato come intermediario tra Beppe Signori e i bookmaker asiatici. E grazie a Dario Ceccarelli. Un'altra inchiesta, progettavano un attentato contro un magistrato che indagava su di loro, per questo sono scattati questa mattina arresti per uomini di 'ndrangheta. Sono in quattro in una stanza e non sanno di essere intercettati mentre parlano di uccidere il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Vincenzo Luberto. È lo scorso 31 maggio e uno degli interlocutori dice: tra qualche giorno ammazziamo Luberto. Quella mattina, si capisce dalla conversazione, hanno seguito il PM e lo hanno visto da solo. Nel frattempo hanno nascosto una moto in un garage, probabilmente per usarla nell'attentato. I quattro parlano anche di come un paio di mattine prima il piano di farlo fuori fosse saltato a causa della pioggia e di come siano già pronti a riorganizzarsi e ad agire per uccidere il magistrato che da anni dà la caccia agli uomini della cosca abruzzese. Portami un'arma, in due o tre giorni lo ammazziamo, dice uno dei quattro nella stanza. I carabinieri intercettano la conversazione mentre è in corso un'indagine antidroga che vede al vertice Tommaso Iannicelli, arrestato oggi assieme con altre 11 persone accusate di associazione mafiosa. In carcere, tra gli altri, è finita anche Maria Rosaria Lucera, e lei che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, avrebbe gestito lo spaccio di droga in tutta la provincia di Cosenza. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quasi 2 milioni di confezioni di alimenti che vanno dai prodotti ittici, lattiero caseare, carne, prodotti da forno, cereali, bibite, tutti irregolari per un valore di 11 milioni di euro. A sequestrarli i carabinieri dei NAS nei controlli scattati nelle ultime settimane in Italia dopo l'allarme del batterio killer in Germania. Intanto la Russia ha accettato di togliere l'embargo sulla vettura europea imposto da Mosca. Questo mentre in Germania l'azienda della Bassa Sassonia, produttrice di germogli, è sospettata di essere al centro dell'epidemia di E. coli e da oggi ufficialmente chiusa e tutti i suoi prodotti verranno ritirati dal commercio. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie tedesche. L'Istat conferma le stime di maggio, l'Italia cresce poco rispetto ai partner europei. Nel primo trimestre del 2011 il nostro paese segna un timido 0,1%, fa meglio la Spagna con più 0,3%, sul podio ancora la Germania a trascinare l'Europa con una crescita dell'1,5%. Segno meno per il Portogallo, meno 0,7%, per la Grecia una ripresa sul trimestre, più 0,2%, ma ancora una pesante eredità annua con una crescita che resta al meno 5,5%. In questo quadro si aprono i lavori a Santa Margherita Ligure per i giovani imprenditori. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. 41esimo convegno dei giovani imprenditori. In una o due giorni di lavori che vedrà interagire qui a Santa Margherita Ligure, mondo dell'impresa, amministratori pubblici e privati, rappresentanti del governo. A fare gli onori di casa il neopresidente dei giovani imprenditori, Jacopo Morelli. Obiettivo dell'incontro: riportare l'attenzione sui giovani, sul successo delle nuove generazioni come elemento determinante per far tornare il paese alla crescita. Ne parleranno oggi, tra gli altri, il presidente dell'Istat Giovannini, il ministro della gioventù Meloni, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, domani vi sarà il contributo del direttore generale della Banca d'Italia Sacco Manni ed ancora il ministro dell'economia Tremonti, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Si parlerà inevitabilmente anche dei rapporti tra Fiat e la stessa Confindustria, con il tema dell'uscita o meno dell'azienda da viale dell'astronomia sul tavolo. Vi è il nodo dei contratti con la questione della rappresentanza. La Marcegaglia vuole confrontarsi su questo tema con i sindacati e già lunedì potrebbe partire la lettera di convocazione per fissare un incontro che possa arrivare ad un compromesso sull'esigibilità dei contratti. Sul confronto incombe l'udienza del 18 giugno al Tribunale di Torino sul ricorso della FIOM contro la Gnucco di Pomigliano, sentenza che potrebbe mettere in discussione, secondo molti, il rilancio degli stabilimenti Fiat in Italia. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Sentivamo dell'Europa trascinata dalla Germania, Europa che si allarga. Nel 2013 arriverà anche la Croazia. Salvo sorprese, dal 1 luglio 2013 la Croazia sarà il 28esimo paese membro dell'Unione Europea. Il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, infatti ha spiegato che l'esecutivo dell'Unione considera finiti i negoziati con il paese slavo. Spetterà ora al Consiglio dei Ministri dell'Unione al vertice europeo del 24 giugno decidere se adottare la proposta formulata dalla Commissione Europea. Il 21 giugno è una delle date indicate nelle quali potrebbero riunirsi i 27 ministri degli esteri dell'Unione per adottare la decisione che richiede l'unanimità. Uno dei principali ostacoli per Zagabria era il capitolo 23 sulla riforma del sistema giudiziario. Il commissario per la giustizia Viviane Reding ha detto che solo l'anno scorso non credeva che la Croazia ce l'avrebbe fatta, ma nell'arco di un anno, ha spiegato, hanno completamente riformato il loro sistema giudiziario e in maniera irreversibile. Barroso ha parlato di giornata storica per la Croazia e l'Europa e si è congratulato con Zagabria e con tutti i cittadini croati. Ora la Croazia è pronta, ha aggiunto, e questo è anche un segnale per il resto dei Balcani occidentali. Dimostra che l'allargamento funziona e che l'Unione rispetta i suoi impegni. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. GR24, queste le notizie di oggi. Verso il referendum, ultima giornata di campagna referendaria, assalto ai monumenti, striscione di Greenpeace su Colosseo, Ponte Vecchio e campanile di San Marco. Il Viminale si schiera contro il calcio scommesse, nascerà una task force che andrà a caccia delle combine. La Croazia in Europa nel 2013, negoziati conclusi, l'annuncio è arrivato da Bruxelles. E ripartiamo dalla TV e dall'aspro dibattito sull'ultima puntata di Anno Zero, che intanto ha battuto ieri sera ogni record. Il programma di Michele Santoro è stato seguito da 8.389.000 spettatori, uno share del 32,9% per una puntata che è stata decisamente animata. Adesso basta. Vita, noi visti. Non usiamo un soldo del canone. Però non fatemi, la verità è questa. Non fatemi noi pagare il canone. Noi finanziamo le altre trasmissioni della Rai, comprese quelle che voi partiti avete imposto. Non fatemi pagare. Basta, questa è la verità. Non fatemi pagare il canone. No, perché dire queste cose completamente false. No, io ogni pago. Volta è insopportabile. Io pago il canone. Pago il canone. Roberto Castelli, Michele Santoro, protagonisti così ieri sera. Saluto Marco Mele del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. Michele Santoro se ne va. I partiti in Rai, conti della TV pubblica. Una partita che sembra davvero non chiusa con la puntata di ieri di Anno Zero. Aggiungo una postilla, perché ha finito di parlare poco fa il presidente della Rai, Paolo Garimberti. Tra l'altro ha detto: Santoro, uomo Rai, conosce le procedure, faccia un progetto, lo presenti. Io rispetto per il mio lavoro e il lavoro degli altri. Santoro, una star non può essere retribuita a un euro. Devo dire che questo uso però delle telecamere del servizio pubblico per parlare dei suoi contratti è fuori regola. Così Garimberti. Marco Mele, che ne pensi? Ma vabbè, la presentazione di Garimberti sembra più che altro molto, molto formale e molto fredda. Le questioni aperte e importanti per tutti gli italiani restano quelle del servizio pubblico finanziato da tutti i cittadini con il canone, ma nei fatti controllato dai partiti. Su tutti i partiti e controllata per legge da chi sta in maggioranza al governo, e la qualità dei programmi dei programmi Rai. Questi sono i due nodi che poi stanno anche dietro al caso Santoro. Io dico non da oggi, e siamo in molti a dirlo, che bisognerebbe rompere il cordone ombelicale tra Rai e i partiti, avere un servizio pubblico autonomo controllato da una fondazione e non con le azioni in mano al tesoro, con un consiglio di amministrazione che venga nominato da alcune autorità al di sopra delle parti. Si deve stare nel mercato, come dice Santoro? Certo deve stare sul mercato. Anno Zero è una trasmissione che sta pienamente sul mercato, con i suoi 5,3 milioni medi di questa stagione, ha degli introiti pubblicitari di 500.000 euro a puntata che sono ben superiori ai costi di una puntata. Quindi è vero quando Santoro dice noi abbiamo bisogno, non è certo il canone a finanziare Anno Zero, perché si finanzia da solo. Ma la cosa principale da dire però è perché paghiamo il canone? E a questa domanda ha risposto in varie sentenze la Corte Costituzionale, dicendo che la RAI deve assicurare la pluralità delle opinioni presenti nel paese e nella società, non la priorità delle posizioni dei partiti. Già l'ha detto varie volte, e quindi non è che io pago il canone per avere solo delle opinioni di chi è vicino a me o di altri, ma di avere questa pluralità, perché, dice la Corte Costituzionale, tra i privati non ci può essere e non c'è la stessa pluralità, visto che c'è anche un fenomeno di concentrazione e di poca concorrenza. Quindi la RAI deve assicurare il pluralismo, quello che si chiama interno, e quindi è una serie di questioni intrecciate, e quindi una vicenda complicata, ancora, e certo non si chiude. Poi le persone con tutte le loro emotività, rabbia, Santoro forse è andato sicuramente oltre le righe ieri sera, ma l'ha fatto anche in passato, c'è l'uso televisivo anche a fini personali, però la questione resta il canone e la RAI sul mercato. E grazie a Marco Mele. Le 13:23 minuti, andiamo avanti, parliamo ancora di televisione. 30 anni fa, due eventi hanno cambiato la storia dell'informazione. Bertuccioni, buongiorno. Giancarlo, buongiorno. Con me c'è la signora. Ancora non si sa bene a che profondità siamo arrivati. Siamo a 25 metri, signora. Ma è da ieri che mi dite sempre che siamo... ieri, quando era? Ieri pomeriggio, verso le 7, mi avete detto che stavamo già a 25 metri. Signora. Questa macchina non va avanti. Un pezzettino, 10 centimetri, 20 centimetri, qui sto questione di metri. Qualcuno l'avrà riconosciuta, era la mamma di Alfredino Rampi durante la lunga diretta televisiva da Vermicino, paese vicino a Roma. Qui Alfredino, 6 anni, il 10 giugno 1981 cadde in un pozzo dove morì dopo 3 giorni. I soccorsi vennero seguiti per la prima volta non stop per 18 ore da Rai 1 e Rai 2 rete unificate. Oggi è anche il 30° anniversario del sequestro da parte delle Brigate Rosse di Roberto Peci, fratello del pentito Patrizio Peci. Roberto venne ucciso dopo 55 giorni di prigionia e anche qui la sua esecuzione è stata fotografata dai brigatisti. Di queste vicende ha scritto l'ex segretario del PD Walter Veltroni nel libro Vermicino, l'inizio del buio. Lo ha intervistato Paolo Panceri. È la prima volta con Vermicino che il palinsesto viene spezzato, cioè dalla struttura verticale del palinsesto si passa a una struttura orizzontale. Per tutte quelle ore tutti i canali televisivi nazionali erano impegnati dalla stessa cosa. Fu uno spazio televisivo tanto stretto quanto il pozzo nel quale Alfredino si trovava. Fu un'esperienza emotiva drammatica, intensissima. Fu la prima volta che le televisioni irruppero nella vita privata di una persona che non era una personalità, ma una persona semplicemente, per di più un bambino, quindi la più debole delle persone, e persino fece irruzione in quella dimensione fino a quel momento sacra che era la dimensione della morte, e da lì è cominciato qualcosa che poi è arrivato fino agli orrori dei giorni nostri. Sicuramente quella notte è una notte in cui la visione diventa una macchina emotiva potentissima e una macchina emotiva che non si ferma neanche di fronte alla vita perduta di un bambino in fondo a un pozzo. Ancora le notizie di questa mattina: 2 anni e 4 mesi di reclusione, questa è la pena per l'impeditore Fabrizio Favata per la vicenda del passaggio di mano. Ricorderete dell'intercettazione ormai famosa in cui Piero Fassino diceva a Giovanni Consorte: abbiamo una banca ai tempi della scalata di Unipol. Lo ha deciso il GUP di Milano. Piero Fassino dovrà essere risarcito per 40.000 euro. E il ministro degli esteri Franco Frattini ha deciso il richiamo temporaneo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore a Brasilia, Gerardo La Francesca. La decisione è arrivata dopo la sentenza che ha negato l'estradizione in Italia di Cesare Battisti. Il richiamo, si fa sapere dalla Farnesina, è stato deciso in vista di nuove iniziative. Parliamo ora di musica. Prima volta la Lirica avrà uno scenario da stadio, quello di San Siro a Milano. Domani il Meazza ospita, con una scenografia monumentale di 600 artisti, la Ida a dirigere. Gli oltre 100 orchestrali sarà il maestro Alberto Veronesi, che al microfono di Adriana Fracchia spiega come la Lirica sia sempre seguitissima. Qualcuno ha affermato che la musica non dà da mangiare, l'arte non dà da mangiare, e con questo ne dimostriamo che c'è una domanda vera, che la musica è una realtà, non è una cosa tenuta in vita artificialmente dai fondi pubblici o da pochi sponsor che danno i propri contributi ai grandi istituzioni. Affermiamo che c'è una domanda e che il mercato può tenere in piedi la Lirica, così come succedeva 150 anni fa, 200 anni fa, quando non c'era il fondo pubblico o addirittura lo sponsor, c'era il pubblico che pagava i biglietti. Quindi questo è anche un segno di indipendenza, di autoaffermazione, e quindi proprio per questa ragione, visto che c'è una domanda, è giusto sostenere la musica anche con i fondi pubblici, anche con gli sponsor, eccetera. Ma una volta dimostrato che c'è la domanda, ecco, questo è importante. Le 13:27:30, Fabio Cantadori in regia, da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione del giornale. Ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.